sbagliato, come Adamo abbia sbagliato a farci come Dio. Sono figlio di Caino, sono un cane assassino, per la sete di potere. Grande Redentore Cristo Gesù.